Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Puntata in replica. Meglio, parlo di sale. Intanto buongiorno amici, io oggi vado subito dritto al primo argomento di conversazione che affronteremo oggi alla Bufala in tavola. Così, se state apparecchiando, evitate di mettere a tavola il salino, come lo chiamate voi, la saliera. E non ci facciamo soprattutto prendere in castagna dal nostro invitato d'onore di oggi, il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna al Sant'Orsola Malpighi di Bologna, che è in diretta con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, un grande piacere come sempre, grazie per l'invito. Abbiamo nascosto il salino, lo mettiamo un attimo da parte, perché sale, qualche pizzico in meno, tanta salute in più. Professore, possiamo riassumere così centinaia e centinaia di dati della letteratura scientifica? Sicuramente sì, il problema del sale è un problema importante perché nelle grandi comunità epidemiologiche è stato spesso correlato allo sviluppo delle malattie cardiovascolari, forse per alcuni aspetti anche eccessivamente demonizzato, perché il grande numero di informazioni circa la potenziale pericolosità del sale era stata ottenuta rispetto a popolazioni che il sale non lo conoscevano, ma che avevano anche abitudini dietetiche completamente diverse, per cui il confronto tra i due ha fatto in qualche modo centrare i riflettori sul sale, anche se probabilmente era la globalità della dieta che faceva la differenza. Ma in assoluto ingerire troppo sale può essere un problema, come può essere mangiarne troppo poco. Quindi, come ogni cosa nella vita, è necessario collocarsi in una posizione intermedia. Quindi, professor Borghi, non tutto il sale viene per nuocere, non bisogna esagerare, e oggi lei ci spiegherà quanto possiamo permettercene. Andremo a cercare il sale che spesso è nascosto in alimenti insospettabili, ma certo, il sale serve anche al nostro organismo, ha un ruolo fisiologico. Il sale ha un ruolo importantissimo perché fondamentalmente è l'elemento principale che permette di mantenere quello che si chiama volume circolante, quindi la quantità di sangue che circola e che permette all'organismo di funzionare. La maggior parte degli scambi tra i fluidi dell'organismo avviene proprio perché il sale è in grado di trascinare acqua ed altri elementi attraverso diversi compartimenti. Quindi senza sale noi certamente non saremo in grado di vivere, ma anche quando il sale si abbassa in maniera eccessiva nel sangue, ogni tanto nei nostri reparti lo vediamo, compaiono immediatamente dei sintomi che sono soprattutto la riduzione eccessiva della pressione, ma in particolare il nostro cervello non è in grado di funzionare con basse concentrazioni di sale e quindi si sviluppano tutta una serie di sintomi che sono in parte incompatibili con la vita. Quindi il sale è assolutamente determinante e noi dipendiamo dalla presenza di sale per il normale funzionamento del nostro organismo. Pane e sale. Il cielo piove, con lacrime d'alto mare. Acqua che non si ferma più. Quindi anche oggi stiamo un po' smascherando una bufala che a volte, proprio le bufale grandi o piccole, a volte nascono da delle informazioni che non sono comprese in modo adeguato. Quindi sale non bisogna eccedere, ma un po' di sale aiuta, non bisogna completamente eliminarlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che ogni giorno non bisognerebbe consumare più di 5 grammi di sale da cucina al giorno, e per dare un'idea più chiara, 5 grammi di sale sono all'incirca, professore, quelli contenuti in un cucchiaino da tè. Sì, un cucchiaino e mezzo, cucchiaino e mezzo, grosso modo. Sì, questo è un aspetto importante. Però questa non è la quantità di consumo ottimale, ma una sorta di soglia che non andrebbe superata, certo, quella dei 5 grammi. Mi spiega per bene? Perché... Sì, probabilmente è una soglia anche piuttosto draconiana, perché alcuni studi recenti hanno dimostrato come questa, che è la soglia standard, qualcuno addirittura dice 3 grammi di sale, sì, al giorno potrebbero essere sufficienti. Effettivamente potrebbero essere sufficienti per le funzioni correnti dell'organismo, ma non necessariamente muoversi in un ambito leggermente superiore potrebbe essere pericoloso. Il problema fondamentale è che quando noi consideriamo la quantità di sale che aggiungiamo, siamo ancora molto legati al concetto della saliera, quella dalla quale lei è partita. Sì, ossia, ho detto nascondetela, arriva il professor Borghi. Certamente, poi ci sono anche degli aspetti scaramantici. Io ho alcuni amici che non la vogliono vedere in tavola proprio per problemi di tipo scaramantico. Ah sì, perché ci sono per non rovesciare il sale. Sì, nella certo, maniera più assoluta. Qualcuno dice di non rovesciarlo, qualcuno dice addirittura che la saliera non dovrebbe mai stare in tavola. In questo modo fa una prevenzione antemarcia, riduce l'ingestione di sale, soddisfa i propri problemi di tipo scaramantico. Ma il problema fondamentale del sale è che noi della saliera non dovremmo avere mai bisogno, perché i cibi che consumiamo contengono già quantità piuttosto considerevoli di sale, e soprattutto le abitudini di vita attuale, quelle che vengono seguite prevalentemente dai giovani, ma non soltanto dai giovani, sono basate su un elevato consumo di cibi salati. Pensi soltanto a tutto l'aspetto dell'attività di socializzazione attraverso gli aperitivi e quant'altro, che naturalmente prevede l'ingestione di piccole quantità di alcol, al fianco delle quali però, per aumentare la palatabilità e per diciamo l'aspetto di socializzazione in generale, vengono quasi sempre associati cibi che contengono di base grandi quantità di sale. Quindi il punto centrale è la saliera deve essere eliminata, perché il nostro fabbisogno di sale è già contenuto nei cibi che noi mangiamo normalmente. Ma in aggiunta consideriamo che questo atteggiamento così draconiano di 5 grammi al giorno probabilmente è un po' troppo restrittivo rispetto alle reali potenzialità negative, sfavorevoli del sale. Professore, noi adesso ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco, insieme al professor Claudio. La bufala in tavola. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo facciamo un viaggio all'interno del nostro corpo e cerchiamo di scoprire, capire quali sono gli organi, gli apparati distretti che possono essere danneggiati da un consumo eccessivo di sale. Alla guida, ci guida in questo viaggio il professor Claudio Borghi, che è in linea con noi. Professore, intanto ne stiamo parlando del sale e l'abbiamo in parte rivalutato, non ne dobbiamo aggiungere perché la nostra dieta è già abbastanza salata, ma il sale serve e può essere prezioso per il nostro organismo. D'altronde, dall'etimo già dovremmo, quest'idea dovremmo già averla, perché sale, salario. Certamente, certamente, questo è un aspetto importante che spesso non viene collegato, ma il salario deriva esattamente dal fatto che i legionari romani percepivano una quota importante della loro paga sotto forma di sale, e questo naturalmente deve fare comprendere quanto il sale fosse già considerato importante e quanto i nostri antenati si fossero resi conto che la carenza di sale alla quale andavano incontro alcune volte questi legionari per natura di tipo alimentare, per il tipo di vita che facevano, potesse essere deleteria per la forza dell'esercito. Quindi per mantenere forti i guerrieri ovviamente, e per sostenere le loro loro famiglie una parte della paga veniva fornita come sale, da cui il nome salario. Quindi non c'è dubbio che il sale è un elemento assolutamente indispensabile. Non penso che la forza di Roma sia stata dovuta al sale, ma sicuramente il fatto di avere pensato di rifornire adeguatamente col sale i legionari è stato uno degli elementi che ha contribuito alla grandezza dell'impero. Noi oggi però invitiamo i nostri amici a controllare il consumo del sale, a non aggiungere pizzichi inutili, anzi a cercare di eliminare, magari con piccole attenzioni, il sale dalla loro dieta, perché la nostra dieta è già sufficientemente salata. Ma allora, professore, mi accompagni in questo viaggio all'interno del nostro corpo per capire un pochino quali sono gli organi o i distretti che possono essere in qualche modo danneggiati se la nostra dieta diventa troppo salata. Certo. Innanzitutto l'apparato cardiovascolare, sia il cuore sia i vasi. Il sale, come ho detto prima, contribuisce a mantenere normali valori di pressione arteriosa, ma in eccesso può in qualche modo alterare la struttura dei tessuti, perché, per dirla molto semplicemente, il sale, il sodio che è contenuto nel sale, nel cloruro di sodio, è fortemente collegato con il calcio, un altro elemento del quale lei sa si parla molto. Ma il calcio sta bene nelle ossa, ma quando entra all'interno delle cellule, all'interno dei tessuti, li rende particolarmente rigidi, e questo irrigidimento della parete delle arterie e della parete del cuore non fa altro che alterare il funzionamento dell'apparato cardiovascolare. Quindi ovviamente il primo organo bersaglio è sicuramente il cuore e i vasi, e l'aumento della pressione arteriosa è uno degli indici più tipici dell'eccesso di sale. Pur tenendo conto che, e questo credo giova ricordarlo ai suoi ascoltatori, il problema del sale è legato anche a una sensibilità individuale, quindi la capacità del sale di nuocere o di generare problemi nei diversi organi varia in maniera sensibile nelle diverse persone, le quali hanno caratteristiche tali per porsi davanti a una possibilità di maggiore o minore danneggiamento dovuto al sale. Quello ma professore, sensibilità. Ecco, è vero che questa sorta di sensibilità è più alta nelle donne in menopausa? È più alta nelle donne in menopausa ed è più alta in generale nei pazienti anziani. Queste sono due categorie di soggetti, naturalmente, che possono avere più danni dalla presenza di quantità eccessive di sale. Le donne, perché l'equilibrio ormonale tende a fare riassorbire più sale attraverso i tubuli renali, quindi in pratica dal rene una quantità maggiore del sale che noi introduciamo con la dieta viene fatta ricircolare, quindi può depositarsi a livello di quegli organi che dicevamo in precedenza. Nei pazienti anziani, perché la riduzione progressiva della funzione del rene fa sì che i reni diventino meno capaci di eliminare il sale, quindi ancora una volta una quantità maggiore viene riassorbita. Quindi, se vogliamo grossolanamente immaginare due tipiche popolazioni di pazienti in cui il sale dovrebbe essere ridotto, sono certamente le donne in fase postmenopausale e i pazienti anziani, soprattutto se ipertesi. Professore, ho due domande da farle. La prima, le persone che scoprono di essere ipertese vengono invitate dal medico curante a ridurre il sale. È sempre un'indicazione corretta per tutti? C'è una relazione così stretta? Basta qualche pizzico in meno per far scendere la pressione? Che effetti può avere? Beh, sostanzialmente sì, il consiglio di solito viene dato per evitare che si ingerisca una quantità eccessiva di sale. Lei pensi che nel nostro paese, credo su un suggerimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fra 3 e 5 grammi al giorno, la media è superiore ai 9 grammi al giorno, quindi siamo da 2 a 3 volte superiore rispetto ai suggerimenti, con delle punte che non le vorrei nemmeno raccontare, perché ho incontrato pazienti che eliminavano 14, 16, 18 grammi di sale al giorno, quindi una cosa micidiale. Quindi il consiglio del medico in generale è proprio per cercare di ridurlo, che può avere un suo significato, senza però ridurlo in maniera eccessiva. Professore, la seconda domanda riguarda la relazione tra sale e ritenzione idrica. Ma professor Borghi, stia attento, ritenzione idrica per noi donne significa cellulite. Non necessariamente, alcune volte può manifestarsi sotto forma di cellulite, ma nella grande maggioranza dei casi le forme di ritenzione idrica che noi vediamo sono associate a quella sensazione di impaccio del movimento, ad esempio delle mani il mattino, e corrisponde realmente a una ritenzione idrica che in questo caso è basata su quello che dicevamo in precedenza, quindi su un equilibrio ormonale che causa una maggiore ritenzione di sale. Quindi meno sale, meno ritenzione idrica, tant'è vero che in generale quando questa ritenzione idrica diventa fastidiosa noi usiamo in maniera sintomatica piccole dosi di diuretici che altro non hanno nella loro funzione se non quella di far eliminare il sale in eccesso. Occhio quindi al sale che aggiungiamo, ma riduciamolo, possiamo anche farne a meno, ma occhio al sale che è nascosto in alimenti a volte insospettabili. Professor Borghi, smascheriamoli. Assolutamente, molti alimenti sono palesemente salati ma graditi, le patatine ad esempio, le patatine fritte sono particolarmente ricche di sale, e le acciughe, tutti questi cibi conservati sono in generale conservati in un mezzo che contiene grandi quantità di sale, ma ci sono anche cibi insospettabili che contengono sale in quantità rilevante, ad esempio alcune acque minerali già al palato si percepiscono come particolarmente salate, se noi leggiamo sull'etichetta la composizione vedremo che la quantità di sale contenuta proprio per l'origine minerale è particolarmente elevata. Le torte, i dolci, chi cucina, io non ne sono capace, immagino che lei sarà molto brava, sa benissimo quante volte sia necessario mettere un pizzico di sale o una certa quantità di sale anche per creare un cibo che alla fine risulterà dolce al nostro palato, ma non per questo privo di sale. E forse l'emblema, secondo me, del cibo nel quale il sale può essere nascosto è il gelato. Nel gelato è necessario introdurre una piccola quantità di sale per mantenerlo cremoso e impedire che il gelato si congeli, si solidifichi. Quindi ce ne sono parecchi di cibi nei quali noi non sospettiamo la presenza di sale e nel quale invece il sale può essere contenuto in quantità non trascurabili. Gli stessi legumi in scatola che andrebbero sciacquati prima di utilizzare, tutto comunque ciò che è in scatola. Professor Borghi, parliamo invece del sale a ridotto contenuto di sodio che viene da alcune persone preferito proprio per ridurre e avvicinarsi a quello che sono le indicazioni dell'OMS. Sì, trovo che sia un'eccellente decisione. Il fatto di utilizzare sali con diciamo diverse salificazioni con minore contenuto di sodio è un'idea che data grosso modo i primi anni 80, quando ci si rese conto che era possibile ottenere un sale palatabile ma che contenesse meno quantità di sodio. In passato c'erano stati degli esperimenti aggiungendo qualcosa alternativo al sodio, ma il sale che si generava era fondamentalmente amaro, quindi rendeva molto sgradevole i cibi. Recentemente sono stati commercializzati sali che in luogo della totalità di cloruro di sodio contengono cloruro di potassio, quindi il potassio viene sostituito in maniera equilibrata al sodio, e questo ha due vantaggi sostanziali. Il primo, quello di ridurre la quantità di sodio naturalmente a parità di quantità di sale aggiunta. Il secondo, di aggiungere alla sottrazione del sodio i benefici del potassio. Il potassio viene ricordato naturalmente da tutte le linee guida come un elemento invece amico del nostro cuore, delle nostre arterie. Lei sa che è contenuto prevalentemente nelle verdure e nella frutta, ma anche quando noi utilizziamo sale per dare sapore ai nostri cibi, se scegliamo un sale ad elevato contenuto di potassio, facciamo certamente qualcosa di buono per le nostre arterie. Quindi è un consiglio assolutamente da seguire. Ogni volta che vedo il mare provo qualcosa di strano. Non so, come un senso di... Ma... Sarà lo iodio. No, non è che lo odio. Mentre se il sale che portiamo sulle nostre tavole è un sale iodato, professor Borghi, noi facciamo anche prevenzione. Nella maniera più assoluta, perché il sale iodato è stata certamente una delle grandi scoperte che ha risolto un problema importante che esisteva in Italia, ma non soltanto in Italia, che era quello dei malfunzionamenti della tiroide. La tiroide dipende da un certo approvvigionamento di sodio, ovviamente per creare i propri ormoni che sono del tutto fondamentali al funzionamento dell'organismo, e l'utilizzo di sale iodato mette la tiroide in condizioni di funzionare bene, e quindi noi ci troviamo ancora una volta con un sale che è in grado di darci la soddisfazione per quello che riguarda la qualità dei cibi e il nostro palato, e al tempo stesso fare prevenzione nei confronti fonti di una malattia, soprattutto le forme di ipotiroidismo che sono ampiamente diffuse, che una volta innescate naturalmente richiedono poi una terapia, quindi hanno una serie di implicazioni sfavorevoli. Professor Borghi, la ringrazio per essere stato con noi in questa domenica mattina. È stato un grande piacere, come sempre. Io ringrazio lei. Buona giornata, buona domenica. Buona giornata. Qualche pizzico in meno, tanta salute in più, ma quel pizzico in meno deve essere iodato. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo subito dopo insieme tra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità. Che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linee d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. La bufala in tavola. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale. Sono tornata. Allora, abbiamo tolto qualche pizzico, adesso aggiungiamo altri pizzichi e questa volta sono pizzichi profumati. Parliamo di erbe aromatiche. Ci accompagna la professoressa Silvana Creglia. Buongiorno, buona domenica, benvenuta alla Bufala in Tavola. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. La professoressa Creglia è docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna. Mi piace questo Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Voi studiate come renderci più bella la vita? Più bella, più sana, più appagante? Noi avremmo la pretesa di studiare in che modo è possibile modulare il benessere e la salute dell'individuo considerando questi concetti da un punto di vista trasversale, mens sana in corpo e sano. Professoressa Creglia, insieme al professor Borghi abbiamo tolto qualche pizzico di sale e adesso con lei invece vorrei aggiungere qualche pizzico per dare sapore, gusto ai nostri piatti e quindi per non rimpiangere magari i pizzichi di sale che abbiamo dovuto eliminare. Parliamo di erbe aromatiche. Perfetto. Avendo sentito il professor Borghi, mi permetterei di aggiungere qualche piccola informazione su una tipologia di sale che sta andando enormemente di moda. Il famoso sale rosa dell'Himalaya, di cui tutti avete sentito parlare. Sì, sì, anzi è molto chic. Estremamente chic ed estremamente costoso. Perché costoso? Perché è un sale puro, di natura fossile, che viene semplicemente estratto e lavato senza essere sottoposto a alcun trattamento di raffinazione. È rosa perché contiene minerali come il rame e il ferro, ma viene pubblicizzato come un sale a limitato contenuto di sodio. smentiamo subito questa affermazione. Anche perché siamo alla bufala in tavola, siamo qua apposta. Siamo nel posto giusto. E, comunicare che il sale rosa contiene meno cloruro di sodio è quantomeno sbagliato, perché le percentuali in meno di cloruro di sodio sono talmente infinitesime da non andare ad influire sul consumo totale. Un'altra bufala che si spaccia con il sale rosa è che è un sale ricco di ferro, quindi lo dovremmo assumere perché in questo modo assumiamo del ferro, ma anche in questo caso la quantità di minerale presente è misurabile in tracce, per cui non va assolutamente a influenzare l'apporto di ferro quotidiano. Ma la cosa più importante è che se uno per moda decide di sostituire il normale cloruro di sodio con il sale rosa, si trova ad utilizzare un sale completamente carente di iodio, perché la quantità di iodio presente nelle sale dell'Himalaya è pari a zero. Quindi attenzione, se vogliamo metterne due granelli sopra un piatto al scopo decorativo, come fanno questi famosi chef stellati, ben venga, ma non utilizziamolo in sostituzione del cloruro di sodio con la speranza o con il pensiero che contenga meno sodio o contenga più ferro, tutto lì. Grazie, grazie professoressa Creglia per questa precisazione, perché mi piace avere le informazioni che arrivano e quindi che ci permettono di vederci chiare e di fare delle scelte più oculate. Passami il sale fa male, passami il tempo non c'è, passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue, passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è. Se siamo amati, feriti, traditi e accarezzati, se siamo presi, lasciati, pentiti e ritrovati. E ogni figlio amato e cresciuto l'abbiamo fatte de notti. Non li vedi andando in giro nel mondo. Allora, mettiamo da parte il sale dell'Himalaya, mettiamo da parte anche un po' del sale che siamo abituati a volte ad aggiungere alle nostre pietanze ancora prima di averle assaggiate, e invece valorizziamo queste erbe aromatiche che possiamo coltivare anche nei nostri balconi, possiamo utilizzarle quindi fresche o essiccate, che sono una miniera di gusto e anche di salute, professoressa Creglia. Assolutamente. Innanzitutto diciamo che il gusto va educato. La percezione della sapidità è un fatto totalmente personale, che però può essere modulato nel tempo. Insomma, non è mai troppo tardi, professoressa Creglia. Da una certa età in poi ho deciso di abbattere le quote di sale nei miei alimenti e ho scoperto un mondo di sapori. Uno si rende conto diminuendo il sale discrezionale, cominciando dalla semplice saliera appoggiata sulla tavola, che le nostre erbe, le nostre insalate, i nostri alimenti hanno un sapore che è dovuto al sale endogenamente presente in natura in tutti gli alimenti. Quindi in teoria non sarebbe neanche indispensabile aggiungerlo. Per di più, se utilizziamo queste famose erbe aromatiche, chi non conosce aglio, cipolla e erba cipollina, soprattutto l'erba cipollina, tanto il bulbo quanto le foglie, che contengono dei composti noti con il nome di flavonoidi ad elevata attività antiossidante, ma il principio attivo di tutti questi componenti odorosi appartenenti alla famiglia delle aliacee è un composto che si chiama allina, ed è un composto a base di zolfo. È chiaro che il classico odore solforato è una sorta di firma, sì, di questa tipologia da di diavolo, ecco. Ed è proprio in questa firma odorosa che risiede il benessere della pianta. Quindi potremmo dire simpaticamente che più puzzano più fanno bene. È vero, è vero. È così. Perché purtroppo l'alito non è che ne goda. Ecco, è un prezzo che dobbiamo pagare. Quindi abbiamo queste, e poi tra l'altro di cipolle se ne possono assumere anche questi in buone quantità, a differenza magari delle spezie che aggiungiamo a cucchiaini o in piccole dosi, perché anche la quantità fa la qualità. Ma dall'aglio passiamo a qualche cosa di più profumato, anche se l'erba cipollina è straordinaria e delicata, è un po' pungente, ma ha delle erbe un po' di casa nostra: rosmarino, timo, guardi, maggiorana. Potrebbe iniziare proprio in ordine alfabetico dal basilico, per passare alla maggiorana, all'origano, al rosmarino, alla salvia, al timo, tutte erbe che sono classiche della tradizione mediterranea e che possiamo coltivare nei nostri balconi. Cosa hanno in comune queste erbe? Che contengono tutte dei fitocomponenti ad azione nutraceutica, questa famosa parolina derivata dalla fusione fra nutrizionale e farmaceutico, che possiedono delle proprietà protettive e preventive nei confronti dello stress ossidativo e di conseguenza di tutte le patologie ad esse collegate, come le patologie cardiovascolari, il cancro stesso, ed esercitano anche un effetto neuroprotettivo. Quindi, oltre a permettere di dare più sapore ai nostri cibi, perché noi adesso vogliamo anche, dopo che abbiamo detto ai nostri amici togliete il sale da tavola, non aggiungete, suggerire come non sentire la mancanza del sale, ma dico di più, come abituarsi a gustare a pieno il sapore degli alimenti e di quello che portiamo a tavola. Ma facendo in questo modo non solo guadagniamo gusto, ma guadagniamo anche salute, perché di tutte queste erbe aromatiche la professoressa Creglia ci sta raccontando che contengono delle sostanze che fanno bene alla nostra salute. Ma anche in questo caso, professoressa Creglia, per avere vantaggi dobbiamo assumerne in quantità, e capisce che non ci si può fare un'insalata di basilico, ecco, insomma, sono sempre piccole aggiunte che facciamo ai nostri cibi. Il vantaggio è comunque considerevole? Assolutamente sì. Bastano anche piccole quantità, a patto che il consumo non sia un consumo occasionale, ma diventi un consumo abitudinario. Sì. Se noi cominciamo a sostituire il sale e a utilizzare sempre di più le erbe aromatiche, alla fine della giornata la quantità delle diverse erbe che abbiamo assunto supera il valore dei grammi, e di conseguenza la quantità di principi attivi che ingestiamo comincia ad essere significativa da un punto di vista protettivo. Professoressa Creglia, sono erbe che abbiamo a portata di mano, ma anche queste erbe hanno una stagionalità. Quando non abbiamo l'erba aromatica fresca, sto pensando al basilico, non è ancora il suo tempo, possiamo utilizzare quelle essiccate senza perdere alcun vantaggio? Direi di sì, è chiaro che l'erba fresca ha delle proprietà che non possono essere minimamente confrontate con la foglia essiccata. Tuttavia il processo di essiccazione, che in fin dei conti è una disidratazione, non va ad intaccare la struttura di queste molecole ad azione protettiva antiossidante, per cui ben vengano anche le erbe aromatiche essiccate o addirittura surgelate, perché talvolta si possono surgelare. Uno raccoglie il basilico fresco, lo lava, lo pulisce, lo mette nei sacchettini da freezer. Fantastico. E poi su una bella salsa al pomodoro, due foglie di basilico, un po' di olio extravergine d'oliva e voilà. E voilà. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Oh Paola. La noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te. E non dimentichiamoci di un'altra peculiarità della dieta italiana, soprattutto del nostro sud, che è il peperoncino, non lo possiamo definire un'erba aromatica, però il peperoncino da brio, rosso, ecco, da brio a tutti i piatti, e poi è bello così nella sua forma. E avendo questo caratteristico sapore piccante, che è una caratteristica che gli viene conferita da una sostanza che si chiama capsaicina, che è presente all'interno del peperoncino, non solo nei semi, ma anche nei relativi filamenti, sì, nella testa del frutto, dappertutto, è in grado di svolgere una sorta di azione, tutti lo sappiamo, anestetizzante sulle nostre, sì, papille gustative. È vero, proprio così. Per cui copre quella che è la mancanza di sapidità. Un alimento che contiene peperoncino, che è stato cucinato, condito col peperoncino, può essere anche privo di sale, in quanto il peperoncino va a vicariare a livello di effetto sensoriale sul nostro palato la mancanza del sale. Professoressa Creglia, quindi aggiungiamo anche un po' di peperoncino, questo pizzico di peperoncino, un effetto un po' piccantino che dà brio ai nostri piatti ed è anche amica della nostra salute e del nostro cuore. Professoressa Creglia, buona domenica, grazie per essere stata la bufala in tavola, per averci aiutato a smascherare delle bufale e averci dato delle informazioni utili per portare la salute in tavola. Buona giornata. Buona giornata e buona domenica a tutti voi. Grazie. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, io vi aspetto. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. La bufala in tavola. Senti come mangio. E ospite dell'appuntamento settimanale di Senti come mangio è il professor Lorenzo Morelli, ordinario di microbiologia all'Università Cattolica di Piacenza. Professore, buongiorno, buona domenica, bentornato. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Un microbiologo in cucina, è vero, sembra una scelta un po' bizzarra, ma in realtà è utile e direi anche salutare, perché la microbiologia ci può aiutare a maneggiare, trattare, cucinare, conservare gli alimenti. Professor Morelli, niente ricette, non mi azzarderei, non è che ho scarsa fiducia nelle sue capacità culinarie, ma direi come facciamo in questo appuntamento della bufala in tavola, cerchiamo di prendere il meglio dei prodotti che portiamo sulla nostra tavola e, vista l'ora, professore, direi di buttare la pasta. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit? E beh, insomma, siamo in Italia, direi che buttare la pasta è obbligatorio. E sulla pasta un microbiologo potrebbe anche avere pochissimo da dire, perché la pasta è un alimento che si conserva tantissimo perché ha pochissima acqua dentro. L'acqua va molto bene per i batteri e le muffe, ma se la togliamo, batteri e muffe, li togliamo di giro. Però, su tutti i pacchi della pasta c'è scritto un tempo di cottura. Quel tempo di cottura è il classico tempo di cottura della pasta al dente, quella che gli stranieri difficilmente riescono a capire. Nel mio periodo americano inorridivo perché vedevo i miei colleghi americani buttare la pasta nell'acqua fredda e poi farla bollire per tempi infiniti. Mamma mia, che pastone! Sì, una roba, una bella colla. Però perché la pasta al dente è interessante per un microbiologo? È interessante per un microbiologo per tanti punti di vista. Allora, innanzitutto la pasta al dente fa sì che il suo indice glicemico, poi lo spieghiamo, sia relativamente basso. Che cosa significa? Significa che l'amido che è contenuto nella pasta non si scioglie nel nostro intestino, mi scuso i nutrizionisti per il termine, molto velocemente, quindi non dà dei picchi di zucchero nel sangue. Quindi tutto sommato la sfruttiamo meglio e allontaniamo il picco di fame che ci viene dopo un certo periodo dal pasto. Quindi è importante cuocere al dente. E questo già un primo punto. Ma poi c'è un'altra cosa estremamente interessante. Nella pasta c'è una quota di amido che viene chiamata amido resistente. Resistente a cosa? Resistente alla digestione, ma non resistente all'attacco dei batteri dell'intestino. I batteri dell'intestino sono tantissimi. Sono molto più delle nostre cellule. Sono quelli che abitano il microbiota intestinale, su cui adesso la ricerca pubblica numerose dati, informazioni, il nostro secondo cervello, quello che, come abbiamo avuto occasione più volte di dire, tiene un po' in pugno la nostra salute, la nutre. Assolutamente sì. Ragionavo con i miei studenti l'altro giorno che le due riviste scientifiche più prestigiose, Science e Nature, sostanzialmente non hanno un numero che non parli di una nuova scoperta nel campo del microbiota intestinale. Ultimamente addirittura uno degli ultimi articoli di Science dimostra come un microbiota di un certo tipo può aiutare nelle cure antitumorali, quindi siamo veramente a livelli altissimi. E però, allora, questi batteri, una volta la chiamavamo microflora, adesso li chiamiamo microbiota, ma i batteri comunque sono sempre quelli, e dobbiamo nutrirli, non dobbiamo nutrire solo noi. Per nutrirli ci sono delle fibre, delle sostanze che vengono chiamate prebiotiche, e da non confondere con i probiotici, che sono i batteri invece che ingeriamo per mantenere alta nel nostro intestino la quota dei batteri buoni. I prebiotici sono del cibo specifico per i batteri buoni dell'intestino, quindi usando i prebiotici aumentiamo la quota di batteri buoni del nostro intestino. È importante perché io in questo momento sto parlando, sto deglutendo, sono anche un po' emozionato, ma nella mia deglutizione mando giù dei batteri che ho inalato da questa bella atmosfera padana, che insomma un po' di batteri cattivi nell'aria ci sono. Ma questi batteri cattivi che sto deglutendo verranno uccisi dai batteri buoni che ho nell'intestino. E allora, come facciamo a nutrirli? Con i prebiotici. E cosa c'entrano i prebiotici con la pasta? Perché l'amido resistente è un prebiotico. Allora, noi italiani... Un piatto di pasta quindi piace e nutre anche, un piatto di pasta al dente, come lei ha sottolineato, nutre quindi il nostro microbiota, i batteri che vivono, i batteri buoni del nostro microbiota. Assolutamente sì, noi italiani abbiamo inventato un piatto assolutamente eccezionale che ci fa affrontare la mezza giornata che abbiamo di fronte senza farci venire fame troppo presto e quindi senza sneccare troppo, e contemporaneamente, inconsciamente probabilmente, abbiamo trovato anche un ottimo ingrediente alimentare, un ottimo nutrimento per i batteri che poi stimolano il sistema immunitario, combattono i batteri patogeni, insomma quelli che ci fanno bene. Tutto in un piatto di pasta al dente. Professor Morelli, molti nutrizionisti, tanti nutrizionisti suggeriscono di preferire la pasta integrale. Cambia la quantità di amido resistente nella pasta integrale o invece nella pasta non integrale? Allora, l'amido resistente no, perché è relativo, però vengono aggiunte delle fibre, quindi alla fine la pasta integrale globalmente ha un po' più di fibre. Poi c'è un piccolo trucchetto che non è da microbiologo, ma se il sale che buttiamo nell'acqua, invece di buttarlo all'inizio, lo buttiamo contemporaneamente a quando buttiamo la pasta, cioè quando l'acqua bolle, ci accorgeremo che potremmo ridurre un filino la quantità di sale che utilizziamo a parità di effetto. E questo potrebbe essere un piccolo trucco che ci aiuta. Certo, perché proprio questa puntata ha avuto come tema portante, insieme al professor Borghi, questa sorta di sfida. Per questa settimana cercheremo un po' di ridurre il sale, almeno il sale che aggiungiamo a tavola, a volte anche così, senza assaggiare i nostri piatti. Riso bianco, riso giallo, viene il sole a gallo. Riso bianco, riso rosso, tu ne mangi io non posso. Riso bianco, riso nero, oggi sono più sincero. Riso bianco, riso azzurro, lo condisco con il burro. Oh, riso e riso, per sempre riso ci sarà. Riso e riso, e sollevante regnerà. Riso e riso, può darsi che ti piacerà. Riso e professor Morelli, abbiamo parlato di pasta e di amido resistente che piace ai nostri batteri intestinali, ma nel riso che cosa troviamo? Nel riso troviamo, innanzitutto non troviamo il glutine, no? E quindi abbiamo tutta una serie di problematiche che si riducono per chi con il glutine ha dei rapporti, certo, diciamo, tempestosi. E dall'altra parte però noi proprio stiamo facendo una serie di ricerche per dei risi particolari, dei risi colorati, che hanno una, ci sono viola, gialli, arancioni, che hanno una percentuale di antiossidanti molto rilevante. E questo potrebbe essere un nuovo modo per fare un risotto alla milanese, dove però il giallo non è dato dallo zafferano, ma ce l'ha già il riso per conto suo. Quindi estremamente interessanti, facilità di digestione, ingestione di antiossidanti. Professore, grazie per essere stato con noi a Senti come mangio. È un mio piacere, sempre con voi. Le auguro una buona domenica. Adesso grazie. Vado a buttare la pasta e utilizzerò tutti gli accorgimenti e i trucchetti che lei ci ha suggerito. Grazie professore, buona domenica. Buona pasta a tutti. Buona pasta a tutti. E per oggi è tutto. Non mi resta che augurarvi buona domenica e di darvi appuntamento domani, lunedì, alle 6:15. Iniziamo come sempre la settimana insieme e poi vi aspetto nuovamente a mezzogiorno con le notizie di Obiettivo Salute e successivamente con Obiettivo Salute Video. Che dire, buona giornata, a domani da Nicoletta.